libertà è un'avventura che non finisce mai. E la vivrai con ogni Pokémon che attrapperai. Lancia la tua sfera. Lancia la tua stella.